sides. Run for your lives. Tonight the riots begin. Back streets of America, they kill the dream of America. Little black girl gets assaulted. Ain't no reason why. News prints a story. Racist tempers fire. Next day starts a riot. Knives and guns are drawn. Two black boys get killed. One white boy goes blind. Across the lines, who would dare to go under the bridge, over the tracks, separates whites from blacks. But you decide. Run for your lives. Tonight the riots begin. Of America, they kill the dream of America. E allora 20 e 21 minuti primi inizia così il nostro mini Pimer con questa canzone Across the Line di Tracy Chapman. Siamo qui in studio con Flavia, ciao, ben trovata. Ciao. Eccola, la nostra traduttrice ormai, insomma, è appunto, lo ricordiamo, la seconda volta che ti ospitiamo con queste traduzioni. Tu leggi Audre Lorde in inglese e poi lo traduci in spagnolo anche in spagnolo, perché sicuramente è più tradotta lì che qui in Italia. E quindi avevi già tradotto, insomma, un testo di Audre Lorde. Quale? Sì, tempo fa venni in radio con Alessia a leggere un brano che avevo tradotto, è La trasformazione del silenzio in linguaggio e azione. Ecco. E appunto avevi tradotto questo, lo hai proposto per radio. Oggi andiamo con un'altra traduzione molto molto interessante, ed è un'intervista insomma veramente tra due grandi pensatrici lesbiche, Adrienne Rich e Audre Lorde. E che intervista è? Dove l'hai trovata? Il libro da cui è tratta la traduzione che leggeremo lo comprai a Barcellona, alla Libreria delle Donne Proleg, che si trova nel barrio gotico di Barcellona. Il titolo è La hermana la estranjera, che sarebbe poi la traduzione di Sister Outsider, un saggio pubblicato nel 1984. È un'intervista di Adrienne Rich, poeta, saggista, insegnante femminista e lesbica, e che ci ha lasciato quest'anno il 27 marzo, a Audre Lorde, come si autodefinisce. Lei stessa, sì, nera, lesbica, femminista, guerriera, poeta e madre. E insomma, una Audre Lorde è già meno conosciuta di Adrienne Rich, però magari anche ricordiamo appunto Adrienne Rich, come hai detto, poetessa, saggista, insegnante, lesbica, femminista, ha vissuto a New York durante la metà degli anni 60, si è separata dal marito, nel 76 si è dichiarata pubblicamente lesbica, ha diciamo in qualche modo concretizzato e tirato fuori delle posizioni teoriche radicali, le ha consolidate, e proprio del 76 è il suo famoso testo Nato di donna, e poi di lì a breve anche un altro importante saggio, Eterosessualità obbligatoria e Resistenza lesbica. In Italia questo saggio è stato pubblicato e tradotto dal DWF, Donna, Woman, Femme, erano i volumi quelli tutti neri, quindi i numeri monografici, era il numero monografico dell'85 dedicato alle ricerche americane sull'esistenza lesbica. Insomma, non è comunque facilissimo trovare, però insomma Adrienne Rich lo potete vedere anche su internet, e poi sono stati diversi i suoi testi pubblicati. Di lei forse ci piace riconoscere, insomma ricordare che ha rifiutato molti premi, cioè lei aveva nel 74 doveva ricevere un premio, il National Book Award for Poetry, un premio prestigioso di poesia, e Rich rifiutò lo ritirò insieme ad altre poetesse a nome di tutte le donne che restano in silenzio, ma lo rifiutò a nome suo, insomma, diciamo. E poi ancora nel 97, Clinton alla presidenza, la nostra Di Enrici ha rifiutato il National Medal of Art, la medaglia delle arti, un altro prestigioso premio, dichiarando: l'arte per me, l'arte per come la concepisco io, è incompatibile con la politica cinica di questa amministrazione, appunto Clinton. Pensa, figurati, l'arte non significa nulla se serve semplicemente ad abbellire la tavola del potere che la tiene in ostaggio. Insomma, con questa definizione abbiamo abbastanza inquadrato. E ugualmente Audre Lorde, tu hai citato una sua definizione, insomma, appunto, di se stessa: sono nera, lesbica, femminista, guerriera, poeta, madre. E adesso noi l'andiamo anche a sentire, lei che si autodefinisce così, che dice, lo ascoltiamo dalla subito sua voce, sì, dalla sua voce. Sono 10 secondi presi da un documentario di Dagmar Schultz. Il documentario si intitola Audre Lorde, gli anni a Berlino 1984-1992, perché lo ricordiamo, Audre Lorde è morta nel 92, e insomma questa è veramente una sua frase famosa e noi ve la proponiamo, insomma. I come here to read my poetry tonight as a black feminist lesbian poet. Eccolo, era molto molto breve, sì, dobbiamo essere subito pronte. Insomma, ecco, con questo si definiva. Audre Lorde è poco poco tradotta, pochissimo conosciuta, se non forse appunto dalle appassionate di femminismo e teorie lesbiche. Ricordiamo che in Italia un importante convegno si è tenuto nel maggio del 2006, l'ha organizzato il Fuoricampo Lesbian Group di Bologna. Il convegno aveva per titolo Il valore della differenza, l'attualità del pensiero di Audre Lorde, un convegno internazionale appunto sul pensiero, molto importante, insomma, per noi, di Audre Lorde. Però poi poche traduzioni, no? Appunto, quali possiamo proprio, sì, sono tre, sì, mi pare. In italiano la poesia non è un lusso e usi dell'erotico come potere, basta. E poi la tua, insomma, trasformazione in linguaggio, sì, del silenzio in linguaggio e azione. E poi questa intervista. Ecco. Purtroppo, e questo lo dico purtroppo perché che non sia mai stata tradotta in italiano ufficialmente, insomma, una grande carenza nostra. Sì, in effetti sì. Flavia, non so se poi dopo avrai voglia, magari adesso andiamo subito a leggere questa interessantissima intervista, poi se hai voglia anche possiamo parlare di che cosa, ma forse le troviamo anche, sì, nel corso dell'intervista qualche frase illuminante per noi, ma del perché ti sei incaponita, diciamo così, a tradurre Audre Lorde, insomma, con grande piacere di tutte noi. Allora, abbiamo pensato a un sottofondo con cui leggeremo l'intervista. Io, vabbè, mi calerò, ahimè, nei panni di Audre Lorde. A te, te tocca la Lorde, dai, qualche minuto per immedesimarci in queste grandissime pensatrici lesbiche, poi vai. Allora andiamo a leggere questa intervista di Adrienne Rich a Audre Lorde nella traduzione di Flavia. Cosa intendi quando dici che due dei tuoi saggi brevi, La poesia non è un lusso e Usi dell'erotismo, sono in realtà sequenze? Voglio dire che fanno parte di qualcosa di incompiuto. Non so come sarà ciò che manca, ma è chiaramente collegato al primo testo in prosa che ho scritto. Uno dei fili conduttori della mia vita è la lotta per difendere le mie sensazioni, sia quelle gradevoli che sgradevoli, dolorose o comunque siano. Difenderle qualora ti vengano rinnegate? E difenderle anche se dolorose. La verità è che mi sono sempre esposta, mi sono sempre lanciata a capofitto. Se è l'unico modo in cui puoi trattare con me, avanti, tratta con me in questo modo. Ti riferisci alla tua infanzia? Mi riferisco a tutta la mia vita. Mi sono presa cura di me stessa attraverso le mie sensazioni. Ho vissuto per queste, a un livello così profondo che non sapevo neanche come esprimerle a parole. Mi dedicavo a sperimentare altri mezzi di comunicare e ricevere informazioni e tutto quello che fosse possibile, perché il linguaggio non era lo strumento giusto. Intorno a me tutti parlavano incessantemente e nessuno offriva o riceveva quasi nulla di prezioso, né per loro né per me. E neanche ascoltavano ciò che provavi a dire quando parlavi. Quando mi chiedesti come cominciai a scrivere, ti raccontai come utilizzai la poesia da giovane. Se qualcuno mi domandava come stai o cosa pensi o mi poneva un'altra domanda diretta, io recitavo una poesia e la sensazione, il frammento vitale dell'informazione, si trovava in qualche posto nella poesia. A volte era un verso, a volte un'immagine. La poesia era la mia risposta. È come tradurre in poesia qualcosa che già esiste, qualcosa che tu già sai in modo non verbale. È così che la poesia diventa il tuo linguaggio? Sì. Mi ricordo mentre leggevo nella stanza dei bimbi della biblioteca, forse frequentavo il secondo o terzo grado, non di più, ma ricordo il libro. Era un libro di poesie illustrato da Arthur Rackham. Erano sempre vecchi libri. Alla biblioteca di Harlem ci finivano sempre i libri più vecchi, nelle peggiori condizioni. The Listeners, di Walter de la Mare. Non scorderò mai questa poesia. È quella in cui un viaggiatore arriva a cavallo fino alla porta di una casa abbandonata? Sì, bussa alla porta ma nessuno risponde. C'è nessuno? Chiede. Questa poesia mi rimase impressa. Alla fine il viaggiatore batte alla porta ma ancora nessuno risponde. Ma lui ha la netta sensazione che in casa ci sia qualcuno. Quindi si gira al suo cavallo e dice: di che sono venuto ma che nessuno mi ha risposto. Ho mantenuto la mia parola. Recitavo tra me e me questa poesia continuamente. Era una delle mie preferite. Se mi avessero chiesto di che tratta, credo che non avrei saputo rispondere. Fondamentalmente fu questo il motivo principale che mi spinse a scrivere. Il bisogno di dire cose che non riuscivo a dire in un altro modo e che non erano neanche state espresse o già scritte in altre poesie. Fu così che creasti le tue poesie? C'erano tantissime emozioni complesse che non trovavo in nessuna poesia. Dovevo scoprire uno strumento segreto per esprimere le mie sensazioni. Di solito memorizzavo le mie poesie. Mi piaceva recitarle ad alta voce. Non le scrivevo quasi mai. Nella mia testa c'era un enorme libro di poesie. E ricordo che già a scuola cercavo di pensare in un modo non poetico. Vedevo come pensavano gli altri e rimanevo sconcertata. Pensavano un passo dopo l'altro, non in bolle venute fuori dal caos che bisognava ancorare al suolo con le parole. Credo che imparai questo da mia madre. Cos'è che imparasti da tua madre? L'importanza della comunicazione non verbale, che sottende il linguaggio. Ho ampliato la mia vita grazie ad essa. Allo stesso tempo, siccome vivevo in questo mondo, non volevo usare il linguaggio come faceva mia madre. Lei aveva un rapporto curioso con le parole. Quando una parola non le serviva o non aveva più la forza sufficiente, semplicemente ne inventava un'altra. E queste parole inventate iniziavano a far parte del linguaggio familiare, e guai a chi se ne dimenticava. Ma credo che mia madre mi insegnò qualcosa di più, che esisteva tra le persone un potentissimo mondo di comunicazione e contatto non verbale, un mondo che era assolutamente essenziale e bisognava imparare a decifrare ed utilizzare. Uno dei motivi per cui crescere mi è costato tanto era che i miei genitori, in particolare mia madre, si aspettavano sempre che sapessi ciò che sentivano. Mia madre si aspettava che lo sapessi senza che lei me lo dicesse, e a me sembrava normale. Mia madre si aspettava che capissi tutto, anche ciò che non sentivo dire. La legge non ammette ignoranza. Esattamente, era sconcertante. Però col tempo imparai ad acquisire informazioni vitali e a tutelarmi senza il bisogno e la mediazione delle parole. Mia madre soleva ripetermi: non limitarti ad ascoltare come un robot ciò che dice la gente con la bocca. E poi mi diceva qualcosa di sgradevole: dall'osservazione si impara sempre, devi percepire il linguaggio non verbale, perché la gente non dice mai ciò che devi sapere. Ciò che ti serve per sopravvivere devi impararlo da sola, e se sbagli paghi, ma questo non è importante. Diventi forte nel fare le cose in cui ti devi rafforzare. È così che funziona il vero apprendimento. È un modo molto difficile di vivere, però a me è stato utile, è stata sia un'opportunità che un ostacolo. Quando iniziai ad andare a scuola scoprii che la gente pensava in modi diversi, percepivano le cose, le svisceravano, acquisivano informazioni verbalmente. Fu un periodo molto difficile, non ho mai studiato, in realtà intuivo i miei professori. Per questo era così importante che mi piacessero, perché non studiavo mai, non leggevo mai libri di testo. Imparai molte cose percependo ciò che i professori sentivano, ciò che sapevano, ma persi anche molte cose, la maggior parte delle mie attitudini originarie. Understand this, I feel like there's something's going on. It's time we take a break and talk a while. Now you know there's people of this world who have needs like you and me. So let's bring our hearts together, 'cause you know what the problem is, the cost of living. Oh, yes, now shall I go? Yeah, love. E allora riprendiamo la lettura dell'intervista di Adrian Rich ad Audre Lorde, e appunto con la traduzione di Flavia che è qui con me. Io faccio Adrian Rich e quindi ti faccio subito una domanda. Prego. Quando dici che non leggevi mai, ti riferisci solo ai libri di testo, perché leggevi tu, giusto? Quando leggevo, le lezioni non le leggevo come si supponeva si dovessero leggere. Le leggevo come fossero poesie, con diverse curve e differenti livelli. Per questo avevo sempre l'impressione che il mio modo di imparare le cose era diverso dagli altri e mi sforzavo di imparare a pensare. Per fare ciò che supponevi facevano gli altri. Ricordi cosa sentivi mentre ci provavi? Sì, avevo l'immagine di cercare di raggiungere qualcosa che era proprio dietro l'angolo, ma che mi sfuggiva. L'immagine svaniva costantemente. In Messico, quando mi trasferì in Cuernavaca, ebbi un'esperienza. Quanti anni avevi più o meno? Avevo 19 anni. Andavo tutti i giorni a Città del Messico per assistere alle lezioni. Per arrivare alla prima lezione dovevo prendere l'autobus delle 6 di mattina alla Piazza del Popolo. Uscivo di casa prima che facesse giorno. Tu sai che lì ci sono due vulcani. La prima volta che li vidi dalla finestra di casa pensai che erano nuvole. Quando uscivo era ancora buio, riuscivo a vedere la cima innevata delle montagne ed il sole che sorgeva nel cielo. E quando il sole arrivava ad un certo punto, gli uccelli cominciavano a cantare. Quando eravamo a valle sembrava ancora notte, ma la neve rifletteva la luce. E poi si sentiva un incredibile crescendo di uccelli. Una mattina salì in montagna e sentii come si sprigionavano gli aromi verdi, umidi della terra. E dopo gli uccelli, fino ad allora non avevo mai notato i loro canti, non li avevo mai ascoltati. Ridiscesi per il pendio in estasi. Era molto bello. Dal mio arrivo in Messico non avevo mai scritto nulla. Per me le parole erano poesia, erano molto importanti. E in quella montagna sentii per la prima volta che potevo unire le due cose. Potevo infondere i miei sentimenti nelle parole. Non era necessario creare il mondo su cui scrivere. Compresi che le parole potevano esprimere delle sensazioni, che la frase caricata di emozione era una realtà. Fino ad allora avevo creato strutture al cui interno si nascondeva una pepita d'oro, come in una torta cinese. Da qualche parte doveva pur esserci del cibo, ciò che mi nutriva realmente, ciò che dovevo creare. In quella montagna mi sentii invasa da odori, sentimenti, immagini, invasa da una bellezza incredibile. Era qualcosa su cui avevo sempre solo fantasticato. Prima immaginavo alberi e sognavo boschi. Fino a che non mi misero gli occhiali, a 4 anni, pensavo che gli alberi fossero nuvole verdi. Quando al liceo leggevo Shakespeare, passeggiavo nei suoi giardini, tra il muschio e le rose spagnole, e i cancelli dietro i quali riposavano bellissime ragazze e il sole che brillava sui mattoni rossi. In Messico scoprii che questo poteva essere reale. Quel giorno in montagna imparai che le parole potevano essere all'altezza di questa realtà, ricrearla. Gravity, 'cause whatever you see catastrophe appears, I hope you understand. But at times I'm scared, I let my hair on top of my head. All I want is to surrender so I can finally rest. I trust my faith, I don't have anything else. All I want is to surrender so I can finally rest. I pray for your help, I pray for your help, I pray for your help, not anything else. I pray for your help. Do you hear anything? I'm standing on my knees, but at times I'm scared. I lift my hair on top of my head. All I want is to surrender so I can finally rest. I trust my faith, I don't have anything else. All I want is to surrender so I can finally rest. Allora, stiamo leggendo l'intervista di Adrien Rich ad Audre Lorde, una traduzione inedita appunto fatta qui da Flavia, due poetesse insomma che si confrontano e parlano di questa poesia che poi è una sfida al pensiero razionale, diciamo, un testo molto politico. E noi quindi comunque andiamo avanti. Allora Adrien Rich chiede ad Audre Lorde: credi che in Messico tu sia riuscita a vedere una realtà così straordinaria, vivida e sensuale che prima vedevi solo nelle tue fantasie? È così. Prima credevo che si poteva solo creare con la fantasia, inventando. In Messico imparai che niente si può inventare se già non esiste o può arrivare ad esistere. Non so quando ne presi consapevolezza per la prima volta. Ricordo però le storie che mi raccontava mia madre su Granada, l'isola caraibica dove nacque. Ma quella mattina in Messico mi resi conto che non avrei dovuto passare il resto della mia vita inventando la bellezza. Ricordo che cercai di spiegare a Eudora quel miracolo, ma che non avevo parole per esprimerlo. E ricordo ciò che lei mi disse: scrivi una poesia. Provando a scrivere una poesia su come mi ero sentita quella mattina, non ci riuscii. Ricordavo solo che doveva esserci un modo. E questo era fondamentale. So che tornai dal Messico molto cambiata, e questo cambiamento era dovuto in larga parte a ciò che imparai da Eudora, ma principalmente era come se avessi dato libero sfogo alla mia opera e a me stessa. Poi tornasti al Lower East Side, giusto? Sì, tornai a vivere con la mia amica Ruth e cominciai a cercare lavoro. Ero stata un anno all'università, ma quel mondo mi era alieno. Dovetti diventare infermiera. Stavo incontrando tantissime difficoltà nel trovare un qualsiasi tipo di lavoro. Così pensai di prendere un diploma da infermiera e poi tornare in Messico. Già, con un lavoro. Ma questo non fu possibile. Non avevo i soldi e alle donne nere non erano concesse borse di studio per la scuola di infermeria. Allora non lo capii, perché asserivano che era a causa della miopia. La prima cosa che feci al ritorno fu scrivere un'opera in prosa sul Messico. La intitolai La Llorona. La Llorona è una leggenda di questa regione del Messico, della zona di Cuernavaca. Conosci Cuernavaca? Conosci il Grand Canyon? Quando piove sulle montagne, le rocce precipitano dalle enormi scogliere. Il suono, l'irrequietezza, comincia uno o due giorni prima che cominci a piovere. Il rumore delle rocce che rotolano compone una voce e gli echi che risuonano somigliano a un pianto, con l'acqua di sottofondo. Modesta, una donna che viveva a casa mia, mi raccontò la leggenda della Llorona. Una donna che aveva tre figli, un giorno trovò il marito a letto con un'altra, è la storia di Medea, e affogò i suoi figli nel canyon. E tutti gli anni, in questa data, torna a piangere la loro morte. Appoggiandomi a questa storia e intrecciandola con altre cose sentite allora, scrissi un racconto intitolato La Llorona. Fondamentalmente tratta del rapporto con mia madre. Più o meno presi mia madre e la inserì in quella situazione. ed abbiamo una donna che uccide, che desidera qualcosa, una donna che divora i suoi figli, che chiede troppo, ma non lo fa perché è cattiva, bensì perché desidera una vita propria. Ma la sua vita è fin troppo distorta. È un racconto molto strano, senza una fine, ma la dinamica... Si direbbe che cercavi di sistemare dei frammenti della tua vita, il rapporto con tua madre, con ciò che avevi imparato in Messico. Sì, alla fine non mi confrontai con il grande peso che aveva mia madre dentro di me e neanche con quanto questo mi influenzasse. Ma era una bella storia. Alcuni frammenti erano nella mia testa, dove stava il libro di poesie, alcune espressioni, cose così. Fino ad allora non avevo mai scritto in prosa e non l'ho più fatto fino ad ora. Pubblicai La Giorona con lo pseudonimo di Ray Domini in una rivista. Perché utilizzasti uno pseudonimo? Perché non scrivo racconti, scrivo poesie. Così dovetti firmare con un altro nome. Perché non ti rappresentava? Certo, io scrivo poesie ed ecco all'improvviso comparire un racconto. Però utilizzai il nome Ray Domini, che è la traduzione in latino di Audre Lorde. Tienen las flores, llorona, las flores del camposanto. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del camposanto. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio. Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. E allora torniamo in studio e proseguiamo con l'intervista di Adrien Rich ad Audre Lorde. Non hai più scritto in prosa da quel momento in poi, per altri 2 anni, finché non scrivesti, la poesia non è un lusso. Non potevo. Non so perché. Quante più poesie scrivevo, tanto più mi sembrava impossibile scrivere in prosa. A volte mi chiedevano la recensione di un libro. Quando lavoravo nella biblioteca, che riassumessi dei libri. Non è che non sapessi farlo, allora ne capivo abbastanza di frasi, sapevo costruire un periodo, ma comunicare sentimenti profondi attraverso blocchi solidi, lineari, mi sembrava un mistero. Era un metodo che andava oltre la mia capacità di comprensione. Però scrivevi lettere alla velocità del fulmine, è così? Non erano esattamente lettere. Mettevo per iscritto il flusso di coscienza, il che era sufficiente per comunicare con le persone che mi erano più vicine. I miei amici mi restituirono le lettere che scrissi dal Messico. È divertente. Queste erano le migliori. Ricordo la sensazione di non riuscire a concentrarmi solo su un pensiero il tempo necessario per portarlo dall'inizio alla fine. In compenso potevo passare giorni e giorni a meditare su una poesia, accampata in quel mondo. Lo attribuisci a delle tue convinzioni di allora o al fatto che il pensiero era un processo misterioso al quale si dedicavano altre persone e in cui tu non avevi fatto pratica, qualcosa a cui non eri abituata? Per me era un processo misterioso, un processo che arrivai a sfidare dopo esservi resa conto che in suo nome si commettevano tanti errori, un processo per il quale non nutrivo alcun rispetto. E allo stesso tempo mi metteva paura perché ero arrivata a delle convinzioni irrinunciabili sulla mia vita, sui miei sentimenti, le quali sfidavano il pensiero. E non potevo farne a meno, non potevo prescindere da loro, non potevo rinunciare a quelle convinzioni, le stimavo troppo. Per me erano la vita stessa, però non potevo analizzarle né comprenderle, visto che non avrebbero potuto, secondo quanto mi era stato insegnato, essere ragionate. Erano cose che si sapevano, ma non si potevano dire né comprendere. Nel senso che non potevi spiegarle, analizzarle e difenderle? Non potevo scrivere in prosa al riguardo. Ecco, molte delle poesie per cui sono conosciuta sono state raccolte in The First Cities. Le scrissi ai tempi del liceo. Se mi avessero chiesto di parlare di una qualunque di queste poesie, avrei detto solo banalità. L'unica cosa certa era che dovevo tutelare quei sentimenti e in qualche modo dargli spazio. Però al contempo li stavi trasformando in parole. Certo, quando scrivevo delle parole che finalmente riuscivano a rifletterli, le ripetevo ad alta voce e allora prendevano vita, diventavano reali. Cominciavano a ripetersi da sole e allora sapevo che era così che suonava, che quello era vero. Come una campana, risuonava davvero qualcosa e non c'erano parole. We'll be right back. successful if you please. Yes, indeed, tomorrow is a politician's today. Be in heavenly places, singing hallelujah with an angel on the piano, or will I be just another contribution to the earth, the trees, the grasses, as tomorrow slowly passes? No one knows, no one knows, no one knows, no one knows, no one knows, no one knows. Torniamo dunque in diretta con la conclusione per ora, insomma, di questa prima parte dell'intervista di Adrien Rich ad Audre Lorde. Un'altra domanda per Audre Lorde: come si collegò secondo te l'insegnamento alla scrittura? So che l'insegnamento è una tecnica di sopravvivenza, lo è per me e credo che lo sia in generale. È l'unico modo in cui si può imparare. Io stessa stavo imparando qualcosa che mi serviva per continuare a vivere. Era come fare lezioni a me stessa ad alta voce. Tutto cominciò nel laboratorio di poesia di Tuvalu. Quando ti chiamarono per andare a Tuvalu, non stavi bene, vero? Già, mi sentivo come se stessi per morire. Che successe in quel periodo? Diane de di prima era il 1967, fondò l'editoriale Poets Press. E mi disse: non credi sia ora che pubblichi un libro? Le risposi: ah sì? E chi lo pubblicherebbe? Io ero sul punto di archiviare le mie poesie perché, invece di scrivere cose nuove, non smettevo di rivederle. Fu allora che compresi, ancora una volta attraverso l'esperienza, che la poesia non è un gioco di costruzioni. Non si può prendere una poesia e rivederla continuamente. La poesia esiste in se stessa. Devi sapere in quale momento va lasciata così com'è. Ma io non smettevo di pulirle e ripulirle. E Diane mi disse: devi pubblicare tutto questo, fallo uscire alla luce. E Poet Press pubblicò The First Cities. Comunque lavorai al libro, lo misi insieme ed era sul punto di andare in stampa. Mi avevano mandato le bozze ed avevo cominciato a ritoccarlo nuovamente. Allora presi consapevolezza. Quello sarebbe diventato un libro. Mi sarei esposta. Dei perfetti sconosciuti avrebbero letto quelle poesie. Cosa sarebbe successo? Cosa sarebbe successo? Ancora non lo sappiamo, perché la traduzione di Flavia appunto si interrompe qua. Tu stai lavorando comunque, proseguendo, certo, con certo. Questo lavoro. Sì, sì, per terminare la... Perché siamo curiose, non ci puoi lasciare col punto interrogativo. Insomma. Assolutamente no. Senti, va bene, lo ripetiamo magari per chi si è persa l'introduzione iniziale, da dove hai preso, insomma, questa intervista. Se... Allora, sì, il libro che comprai, appunto, come ho detto prima, a Barcellona, La Hermana, la Estranjera, ed è la traduzione in spagnolo di Sister Outsider, saggio pubblicato nel 1984. È uno dei brani presenti nel libro, mai tradotto in italiano. difficilissimo tradurre, cioè già difficilissimo tradurre una poeta, una poetessa, è difficile tradurre anche un pensiero o appunto estremamente complesso come Audre Lorde. Non so se ti ha tranquillizzato sapere che anche lei aveva, diciamo, questo avuto insomma questa difficoltà con le parole, cioè ha fatto un po' una lotta insomma da quello che racconta. Non so appunto se per te è stato ugualmente difficile, immaginiamo comunque insomma di sì, è un lavoro di pazienza. Sì, di pazienza, sì, ben ripagato, perché comunque tradurre ancor più che leggere ti fa entrare inevitabilmente nel mondo di chi scrive, e in questo caso l'ingresso e la permanenza sono stati decisamente gradevoli. Audre Lorde. Sì, quindi no, un piacere, per quanto a volte difficile, però. Senti, ma quando traduci, nei tempi, ritagli di tempo? No, adesso ovviamente. Ho tanto tempo perché sono senza lavoro, infatti per questo ho ripreso la sì. Era una cosa che avevo incominciato, poi adesso che da un mesetto che sono senza lavoro, quindi ho tutto il tempo per dedicarmi a Audre Lorde e alla traduzione. Guarda, veramente non si sa più che dire se questo è un bene o un male per noi. Comunque è un bene, perché appunto poeta e pensatrice veramente poco tradotta qui in Italia, e insomma di conseguenza appunto ripetiamo sono tre le traduzioni di piccoli brevi saggi, una è già a cura di Flavia, la quale appunto continua ad andare avanti. Vogliamo ripetere quali sono i suoi lavori pubblicati? Allora, tradotti sì in italiano, La poesia non è un lusso e Uso dell'erotico come potere, e La trasformazione del silenzio in linguaggio e azione, tradotto qui per la radio MFLA, che lessi appunto con Alessia qualche tempo fa. Credo che si possa scaricare anche dal sito. Infatti. Sì, nel nostro blog abbiamo pubblicato, insomma, già all'epoca avevamo il blog, no, mi pare, quindi sì, lo trovate senz'altro, e anche il testo, come poi adesso faremo anche con questa. E ci siamo avvicinate appunto al pensiero poetico, al come nasce, che rapporto c'è tra la realtà, i sentimenti e le parole, come si incastrano in questa difficile relazione. Ovviamente è importante riconoscere appunto il legame delle parole con la realtà, ma anche quello che ci aliena di queste parole rispetto appunto a quello che dovrebbero descrivere. Il linguaggio poi alla fine è una forma di ordine per il mondo, e quindi scegliere una scomposta autenticità, diciamo, va sempre bene. Però per chiudere insomma questo spazio, abbiamo parlato appunto di pensiero non razionale, di poesia, di sentimenti, invece vi forniamo, anche grazie a Daria che trova tutte queste chicche, non sappiamo come, e ci riempie il martedì di un altro brano preso sempre da questo documentario Audre Lorde, gli anni a Berlino 1984-1992, documentario di Dagmar Schulz. E il brano che vi facciamo ascoltare, il primo all'inizio, era appunto Audre Lorde che si autodefiniva, no? Quindi femminista, nera, lesbica, poeta, eccetera. Questo invece dura un pochino di più e dice così: il razzismo in Germania, Svizzera, in tutta Europa deve diventare un problema delle femministe bianche, perché è parte delle vostre vite, riguarda le vostre vite in ogni loro aspetto. E il fatto che voi non siate persone di colore non vi salva dagli effetti del razzismo. Insomma, al di là della poesia, questo invece è un pensiero molto razionale che ci sentiamo di mandare in chiusura di questa trasmissione, e così anche come spunto di riflessione per tutte noi. Una donna che ha sfidato razzismo, omofobia, sessismo e classismo da sola, insomma, non è poco. Non è poco. Quindi chiudiamo con questo audio che adesso vi proponiamo, poi mettiamo un altro classico di Tracy Chapman a chiudere, proprio impacchettare così la nostra trasmissione. Grazie Flavia. Grazie, Olga. Un abbraccio e un saluto a tutte coloro e tutti coloro che sono all'ascolto, e vi lasciamo con la voce di Audre Lorde, che appunto ci fa riflettere sempre. Racism in Germany, in Switzerland, in Europe must become an issue for white feminists because it is part of your lives. It affects your lives in every way. And the fact that you are not people of color does not make you safe from the effects of it. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time.